Io sono un ragioniere e sono di colore. Io faccio i conti rap, non faccio mai un errore. Poi scendo giù nel ghetto e sul palco io mi sfogo. La folla in delirio urla troppo togo.